Allora diamo il benvenuto a Maddalena Bertolini e a Matteo Fortuzzi che questa sera ci introducono in un mondo nuovo, una novità un po' per la biblioteca, ecco, un'indagine nel mondo femminile, in particolare appunto mi raccontava Maddalena che nasce come ostetrica, quindi ha un'esperienza in questo settore che però poi l'ha portata a fare delle riflessioni, a indagare appunto la figura umana, femminile, il ruolo della madre, ma anche quello del padre, e i risultati sono anche appunto non solo questo libro di poesie che questa sera verrà presentato, ma anche opere di prosa che hanno ottenuto dei riconoscimenti. In particolare una è stata premiata l'anno scorso al Salone del Libro di Torino. Ma non voglio anticipare altro, lascio la parola a Maddalena, che ringrazio della sua presenza e di essere venuta in questa biblioteca, che è un po' piccola ma è candidata ad entrare al polo bibliotecario. Fra 4 anni avremo uno spazio un po' diverso e quindi potremo anche rivederci e ritrovarci con nuove proposte. Ringrazio Matteo Fortuzzi, mi ha detto che è una sorpresa, che non posso anticipare niente, e quindi vi lasciamo completamente la parola ringraziandovi della vostra presenza qui. Grazie. A voi. Il microfono lo quasi quasi viene consiglio. Ah, io sono alfa, ma non c'è tanta gente stasera, però. Cos'è? No. No, questo è qua. Beh, però, mi sembra giusto. Bene, tu lo sai accendere questo. Te l'ho fatto vedere qua. È acceso questo? Comunque proviamo a partire lo stesso, perché se non c'è tanta gente siamo... acceso sotto? Sotto. Perché adesso qui è acceso, era spento. Sì, sì. Ok, benissimo. Grazie. Prego. Grazie. Così, da me? Certo. Forse è troppo alto il volume? No. Mi sentite bene così? No, tengo lontano. Stiamo qui. Questo libro si intitola Una, e adesso da questa poesia si capisce perché. Si intitola Liquo. Sto nuotando nelle parole, la loro acqua è come tutta l'acqua, muta, incolore e che si muove. Io dentro il movimento lo accontento, mentre le mandrie amniotiche mi sfiorano, migrano per vene cave e colonarie artiche. Questo è un oceano animale, viene a leccare il sale sulle sponde, a dorsali d'alghe, albe, obbedienti agli elementi, alle colonne d'Ercole e alla luna. Io sono una che scrive per fortuna. Oh, io obbedisco. Lui è il mio editor, il mio amico e il mio tormento. E non se la prende. Vado sotto la coperta della pioggia, l'acqua mi cerca. Gocciolo come un albero, un lampione, come quel cane curioso. Sono un segugio d'acqua, sembro perduto. Lei chiama il rabdomante, l'uomo trema con il ramo tra le braccia. Tremo ogni fibra, ogni mia consistenza, tremo sorgiva, freddissima e allegra, giro su me stessa, come un'auto che sbanda, ti prego non frenare, lasciami scivolare a capofitto sotto il parapetto, nel buio di un abbraccio. Questa è una poesia sulla morte, però Non c'è, non è tanto triste, vero? Anche questa. È semplice settembre, viene come l'altro lato dell'esistere, le sere sempre più vicine, le notti fredde, le finestre chiuse. Cominciamo con coperte leggere, golfini sulla pelle, i temporali, le schiarite, le ultime gite sicure, i fianchi scaricati dei ghiacciai, verdi ormai, chiedono pietà. Arriva il sollievo delle stelle, lasciate sul bagnasciuga del mattino, l'estate è perfettamente addomesticata. Muore mansueta. Visto che è settembre. Questa invece è di primavera. Pasqua al vento. Senti il paese sbattuto dal vento, com'è contento. I muri si gonfiano, i camini si ergono, le tegole rizzano il pelo e si sgolano. Dimmi se non viene voglia di ridere, con tutti i capelli e i cappotti, adesso che l'annuncio è così limpido, che il sole è netto e alto, che tutto il tuo desiderio piantato nel petto è arieggiato, asciugato, con le radici così forti, così felici di esserci. Buonasera, grazie a tutti. Sono Matteo Fantuzzi, vi ringrazio, no, più lontano, vi ringrazio di essere qua innanzitutto. E Maddalena Bertolini è una scrittrice molto apprezzata in Italia, ha vinto l'anno scorso uno dei maggiori premi italiani di poesia riservati agli inediti, che è il premio appunto inedito di Torino, legato al Salone del Libro, il premio del Salone del Libro. È un'occasione sicuramente importante per la letteratura. Il premio consiste in qualcosa di molto, molto bello. L'autore che vince può scegliere di pubblicare la sua opera con chi vuole. E Maddalena Bertolini ha scelto l'editore La Dolfi, un editore specializzato in poesia, che ha una storia molto lunga sulla poesia quindicinale, ormai quindicennale, chiedo scusa, ormai di lavoro costante e quotidiano sulla poesia, soprattutto sulla nuova poesia italiana e straniera. Abbiamo avuto tanti autori importanti in questi anni, abbiamo avuto Franco Loi, abbiamo avuto Franzin, che sono probabilmente i maggiori poeti dialettali italiani esistenti. Abbiamo vinto la settimana scorsa il Camaiore internazionale con lo scrittore messicano Homero Arides, e abbiamo Maddalena Bertolini nella nostra bella e nutrita collana. Ed è una cosa che ci fa molto onore, perché Maddalena è bene o male di queste parti, poco lontana di Pergine, nella Valsugana, ed è giusto che prima di tutto siano i territori di un autore ad accorgersi della qualità di un lavoro, perché la poesia in qualche modo lavora anche sulle persone. E questo è qualcosa di fondamentale che la caratterizza molto più della narrativa. E quindi riuscire a fare in modo che un autore conosca e venga conosciuto dalle persone che ha a fianco nella vita quotidiana, secondo me, secondo noi tutti, è fondamentale. Questo libro, in particolare, ragiona proprio sulla circolarità della conoscenza attraverso la poesia. È una cosa molto bella che mi è capitata lavorando su questo libro assieme a Maddalena è stato vedere proprio come nella progettualità ci fosse l'essenza stessa dell'esistenza di Maddalena. La scansione dei capitoli è molto molto bello in questo senso. 1, 2, 4, sei, sono. Fa vedere il ritorno proprio all'essenza dell'una. Credo che sia davvero un modo importante di raccontare la propria vita attraverso la poesia. Il racconto della vita spesso caratterizza la poesia. Riuscire a ragionare in maniera così forte su una poetica significa portare l'ascolto a dei livelli estremamente alti, e la poesia di Maddalena fa davvero questo. No, fa vedere che è così davvero. Devo leggere altre? Sì. Dammi il paradiso della domenica mattina, il ferro pazzo di un cavallo che solleva odori, il quinto paio di pantaloni, le risposte infami delle macchie sulle magliette, le smorfie delle camicie, mentre la giumenta lenta della lavatrice rumina mutande. I calzini, come i nostri sguardi, fanno fatica a accoppiarsi. Amore, sei partito presto, io tentavo di ubriacare l'arrosto. Se non esco muoio, ho bisogno di tutta quell'aria ammassata in montagna. Dammi il paesaggio dei figli, le loro colline di sonno, i risvegli, i germogli, i gesti ingarbugliati, il resto, fino in fondo al cesto del tempo. Quando sarò vuota, la biancheria stirata e le lenzuola, quando sarò sola, la mia faccia e quella brutale della poesia. E piove. Usciamo presto con l'alba alle caviglie in questo odore di cuore calpestato. Io guido e tu hai addosso la barba e la tenerezza del sonno. La luce finge di non vederlo e ti seduce. È facile per lei amarti solo perché al buio non esiste. Tu parti, il treno si allontana, il temporale si avvicina, la pensilina è una pista d'aereo, la stazione è già volata via come un piccione a cui ho dato un panino e un bacio. Questo è mio figlio che va all'università. Io ho quattro figli e dentro ci stanno, dentro le mie poesie ci stanno tutti, infatti una, due, quattro. E poi si torna al verbo essere, sei e sono. I quattro soli. I quattro soli salgono a cavallo, sbattono la porta e salutano la gatta. Giovani magi a caccia di comete e volpi profumate. Il sole che ho sposato mi illumina la faccia e dice vieni. E poi dispiega lentamente la mappa della luna. Noi siamo fatti di materia oscura e amorosa. Sono la stessa cosa, l'abbraccio denso che tiene le galassie, i tatuaggi delle costellazioni, le esplosioni delle vite nuove. E due parole su Matteo, che ringrazio di essere qui, si è fatto una barca di chilometri, si è portato due figli che li hanno vomitati in macchina, due incidenti stradali. Non lo voglio dire qui, ma li raventamenti. E viene da Pordenone Legge, è arrivato a luna di notte stamattina e poi ha ripreso la macchina per venire qui. Ringrazio molto Matteo di essere qui, è un onore. È una grande persona. Devo dire che io non ho scelto la Ladolfi, ho chiesto alla Ladolfi che mi scegliesse. È un passaggio lievemente diverso. Però il fatto che sono stata scelta, mi rende orgogliosa di entrare in questo mondo molto attento a chi scrive, e segno di questa attenzione il fatto che lui è qui, si è fatto questa barca di chilometri per essere qui fra noi, e quindi lo ringrazio molto. Grazie. Anche lui è un poeta, eh? Molto bravo. ha già alle spalle Cobarito, una raccolta che ha venduto molto, e è in preparazione un suo nuovo libro. Molto, io posso dire molto bello dagli inediti che ho scritto, che ho letto, scusa, e che spero magari in un futuro, quando uscirà, di portarvelo. Stavolta poi presento io. Ok. Ecco, rialzando magari a cosa è successo a Pordenone proprio ieri, durante l'incontro con Nanni Balestrini si è parlato, tra le altre cose, anche di poesia femminista. Ecco, come già dice Sara Tardino, altra importantissima scrittrice emergente italiana, che ha firmato la prefazione a questo libro, di cui tra poco sentirete molto molto parlare, tra parentesi, e che quindi ulteriormente impreziosisce il libro di Maddalena, questa non è assolutamente una poesia femminista, non è assolutamente una poesia femminile nella versione negativa che potrebbe esserci in questo termine, è una poesia di una donna, è la poesia di una levatrice, che è stato il mestiere e che rimane l'occhio di Maddalena, perché lo sguardo della levatrice assolutamente c'è in questo libro, traspare, emerge, esplode proprio. La capacità di vedere i figli, vedere le madri, anche quando la madre magari è se stessa, vedere i padri quando anche il padre è il marito, tutto questo decisamente emerge dal libro, ma non è mai qualcosa di artificioso, non è mai qualcosa di stucchevole, è qualcosa che semplicemente è come deve essere la poesia, deve essere uno sforzo di verità. Solo in questo modo può arrivare diritta alle persone senza alcuna sovrastruttura. Scrivo anche di altro, non so tanto. Per esempio anche questa, Zanzibar, Stonetown. È in centro il balcone da sul mare, dall'orfanotrofio di Stonetown si vede l'Africa e il sole tramontare. Per l'alba si deve scavalcare l'isola, scendere le scale di legno rotto, all'usare ruina scappata di troppo, lasciarlo addormentato sul pavimento, a braccia allargate, un anno di spavento. Le gambe tanto non lo reggono e neppure si può pensare di adottare tutti, non è legale. Allora lascialo a braccia aperte e offerte, come quel capretto venuto a dare tutto. Pure questa ragazzina, bambina. È la prima volta che la neve le cade addosso, sulla giacca rosa, sulla scriminatura spinosa, le ciglia oblique. Le assomiglia, leggera, vergine, felice. La prende sulla sua lingua cinese, la neve fredda del nuovo paese, fioccano bianchi ideogrammi parlanti, ognuno un disegno preciso, fragrante come un sorriso, sciolto come un biscotto, la tazza del viso. È salutato. Posso fare una domanda? Grazie. Era in riferimento all'intervento che ha fatto prima Matteo Fantuzzi, che diceva la poesia è una poesia di una donna, non è femminile con tutto quello che potrebbe esserci di negativo. Ma cos'è che c'è di negativo nel femminile? E il come è stato usato. Uh-huh. Un certo tipo di utilizzo, come dire, è come se fosse uno strumento usato male, come se il femminile fosse una vanga che invece che serve invece che essere usato per zappare e coltivare, viene usato per essere data sulla testa. Ammazza comunque, cioè come se fosse un fucile, ma non è così che deve essere usata una vanga. Quindi la femminilità non può essere qualcosa di distorto, distorcente o usato per farsi largo, per farsi strada. È tutt'altro. La femminilità, la poesia femminile ha delle caratteristiche, secondo me, un po' diverse da quella maschile, anche se il substrato è quello, cioè comunque si guarda al senso della vita, alla verità e anche a ciò che viene oltre, all'aldilà, ma non è un aldilà inteso in un senso spirituale, non è un aldilà proprio. Quindi c'è un terreno comune, però c'è una diversa sensibilità, c'è la sensibilità del padre e della madre. Io sono convinta che non ci possa essere una identità di genere unica, cioè i generi sono diversi, e perché così è fatto l'uomo, maschio e femmina. E anche nella poesia si sente, ed è bello quando si possono assimilare, confrontare, e soprattutto l'uno completa l'altro. Mi piace molto leggere poesia maschile perché mi tira fuori da una sensibilità che ho in eccesso, se vuoi. Però nello stesso tempo è bello leggere poesia femminile perché può aprire a degli sguardi, a delle sensibilità che ha una madre. Spesso per me femminile coincide con materno. Sono due cose inscindibili. Non è necessario partorire per essere femminile, però il materno è insito a me. E anche l'erotico, non è che si esclude questo sguardo qui. Per fare un altro esempio, per parlare anche d'altro, c'è stata un po' di polemica recentemente perché l'ultima edizione di Einaudi dedicata ai nuovi poeti italiani è stata composta sia la curatrice che tutti i poeti inseriti da donne. Però si tratta di nuovi poeti italiani, non di nuove poetesse italiane. Quello, al di là della indubbia qualità della proposta che è stata fatta in altre edizioni, Einaudi ad esempio aveva scelto di inserire solo poeti dialettali, solo poeti. Su questa cosa del genere si è discusso moltissimo, forse anche più delle poesie inserite, perché c'era poco da discutere, erano degli ottimi testi selezionati molto bene dalla Rosadini. Si è deciso di ragionare su quello perché spesso in Italia piace metterla un pochino in cacciara. Quello che deve rimanere è questo, cioè se di una poesia rimane solo il fatto che è scritta in un certo modo, non rimane il fatto che è una, in maniera assoluta, una buona poesia, vuol dire che una poesia è debole. Se invece si trova di fronte a una buona poesia, è una buona poesia, che l'abbia scritta un biondo, un bruno, una donna, un uomo, un farmacista, una levatrice, o chi per essi. Sì. Altre domande? Non ora, vediamo. C'è tempo. C'è tempo. C'è tempo. Sempre restando in quelle sono periferie. Un nero beve il latte di luce dell'alba e quasi sorride al treno che gli sfiora il naso. Le mani scure reggono il balcone in queste casone dalla faccia fascista e i cortili scalzi. Giocavano i compagni di scuola, i più ignoranti e i più italiani. Eppure il figlio della prostituta. Avevo quasi paura a guardarli, tanto erano felici. Allora pensavo fossero le case a rallegrare i miei amici, i loro balconi parenti, le grida, i nomi lanciati dall'alto come monete nel piatto. E poi c'è tanta natura. Tante. A casa. Ritorno a casa nei vestiti. Mi tolgo il mare dalla fronte, rimetto le nuvole negli occhi, il vento nei cavi auricolari e i laghi sulla piana dei polmoni. Infilo le valli nelle maniche, sulle punte le dita del Brenta e tutte le cime avvolte come lane marroni e pesanti di boschi. Per ultime tiro fuori dal cassetto le calze bianche e celesti dalle neve. Le srotolo in un brivido di freddo. Per dire come si è conformata la natura in Maddalena, oggi quando sono arrivato a Pergine, a casa sua, è la prima volta che arrivavo, l'ho telefonato e mi ha detto gira dal platano, non mi ha detto il nome della via, l'unico suo punto di riferimento era il platano, che ha detto dalle mie parti non ci sono i platani, non sono sicuro di riconoscerli in mezzo a tutti gli altri alberi di Pergine, e quindi scesa in strada e ho voluto prendere. Monte estivo, alla guerra. Le vacche ruvide raspano l'alpeggio, l'erba delle estati senza tregua, sbordata alle trincee accanto alle casematte. La lingua della guerra rumina eroi, fanti austriaci con la bocca piena di consonanti e di pidocchi. L'acqua della borraccia, la mulattiera, i sassi piatti per i passi dei cannoni in vista sulla valle bella, tutta quella guerra aperta per il prato, sparpagliata e rotta, con le bestie a leccare ogni scintille precise, la pelle perduta dei perdenti. Io ho avuto un nonno che ha combattuto con gli austriaci e un nonno che ha combattuto con gli italiani. Infatti questa è per l'altro nonno. Modena, 17 marzo 2011. Il vecchio denso con le ossa piene di questa terra arata esposta, le spine delle stoppie rivoltate come ciglia dentro agli occhi, nonno Napoleone asciutto, ha venduto tutto per andare all'arme. Derubato dai banditi e ferito dagli austriaci, vinse la sua patria, perse la sua casa. Il nonno, nella foto a cavallo, sorride. Operaio edile, quanti figli nella miseria nera, la moglie sempre fertile, morì in affitto, in via della terra, i tre maschi tornati vivi dalla guerra. Le storie dei nostri nonni. Mio nonno Napoleone, si chiama davvero Napoleone, aveva patriota fortissimo, tra l'altro dalla terra di Modena, era stato cacciato, era rifugiato in Francia, e quando è scoppiata la guerra del 18, per tornare a combattere per gli italiani, ha venduto tutto quello che aveva e preso moglie e figli e si è spostato in Italia. Quando è stato sul confine, gli italiani l'hanno salito e gli ha portato via tutto, è rimasto in mutande. e lui ha combattuto, è stato ferito qui sull'altipiano dei Sette Comuni e poi è stato portato a Rovereto. E mia nonna, che era una donna, si chiama Maddalena, piccola e forte, tenace, e ha pigliato figli e è venuta qua a Rovereto assistere suo marito e qui si sono fermati. Lei è mezzo francese, mezzo italiano, le cose. E invece l'altro nonno che ha combattuto con gli austriaci e si è ritrovato a dover scegliere, siccome aveva terre qua e là, si è ritrovato a dover scegliere dopo il 18 se vendere la terra italiana o vendere la terra austriaca, da che parte stare. Lui era Wilhelm, il suo primo figlio era chiamato Umberto perché ha deciso di essere italiano. Però questo lato tedesco Sì, forse si è anche pentito verso la vita. Infatti l'altra figlia mia mamma si chiama Teresa, Teresa d'Austria, l'ultima figlia, quando già ormai era sul lato del pentimento. Si stava preparando il terreno per... sì, le storie, storie di confine. Primavera, la pelle del cielo torna tenera, odora del biondo del nord, il vento seduto sotto il sole si scalda le guance, la pelle del giorno in ogni alba schiara, la puerpera bianca allatta, il sole signore avanza senza sfarzo, mantiene la promessa che lo uccide. Il mondo è pieno di respirazioni e sospiri, sorrisi, risate misericordiose. Per venire con piacere, perché sono, faccio leggere anche un momento. Magari no, perché credo parlare è bello, ma credo che si sia innanzitutto qua per sentire della poesia, e quando c'è della buona poesia è meglio parlarne poco e ascoltarla tanto. Magari una cosa carina, simpatica da dire è come è finito questo libro, nel senso che l'ultima fase di lettura, di editing, io, Maddalena e Sara Tardino l'abbiamo fatta in auto mentre al ritorno da un convegno a Firenze, mentre guidava il marito della Sara Tardino, e gli ultimi dubbi ce li siamo tolti in questo modo mentre portavamo alla stazione dei treni a Bologna la Maddalena. E questo è anche un modo di dire che diciamo esiste oggi in Italia una letteratura fatta da scrittori, poeti che si stimano, che non sono gelosi uno dell'altro, e questo sta producendo rispetto a solo qualche decennio fa degli ottimi lavori e poca fuffa. Ed è qualcosa di estremamente positivo, perché quando tutte le energie vengono spese solo nel lavoro letterario si ottengono delle cose di qualità e non si perde tempo in fandonie che soprattutto in passato non troppo prossimo ci sono state. È chiaro che non sempre il piano nazionale rispecchia poi tutte le questioni territoriali, quindi può capitare che esistano comunque delle problematiche in alcuni territori, però diciamo che bisognerebbe sempre tendere a considerare la letteratura come, come qualcosa di popolare, tra virgolette, nel senso proprio del popolo, della gente, di comune, non qualcosa di privato, che, di esclusivo, che solo poche persone sono in grado di comprendere e di vivere. La buona letteratura, la buona letteratura coinvolge tante persone. Fa in modo che ci siano tanti tanti festival partecipati oggi in Italia, e questa è una splendida cosa che spontiamo anche all'estero. Adesso continuo a leggere, perché sono in affono. Posso fare una domanda? Sì, ci può dire, come del resto parlavo un pochino prima, così è un pochino della genesi della sua poesia, no? Perché è così, da una parte c'è questa dolcezza, dall'altra c'è una forza di parola, di immagine. Allora, se magari, come nascono queste poesie? Che lavoro c'è dietro? Sì, la parola giusta è proprio lavoro, ed è il significativo esempio che ha fatto lui quando appunto ci siamo trovati in tre ma non ci siamo trovati in tre per decidere quale poesia mettere dentro. Ci siamo trovati in tre a combattere su di o non di, cioè sulla singola preposizione. Sulle virgole. Su? Sulle virgole. Sulle virgole. Su, voi troverete degli accapostrani, un la domenica. Su questo là abbiamo combattuto ferocemente. Su ogni tanto troverete un articolo, un i in fondo al verso, perché si svolta lì. E su questo abbiamo combattuto. O delle parole, ma proprio. La cinese. Ah sì, la cinese. La poesia che ho letto prima, quella sulla bimba, io l'ho intitolata cinesina. Lui me l'ha fatto sostituire in bambina, perché c'era già cinese nel testo. Non c'è una ripetizione. Due settimane su quella cinesina. Beh, poi avrebbe anticipato la sorpresa, forse era meglio. Vedi? Dà ragione a Matteo. No, davvero? Sì. Non è, cioè, non fa niente Matteo, è quel che è, cioè, dà le sue ragioni di essere, e non fa niente, ti rivolge lui. Però anche il fatto di combatterlo significa che tu ti devi dare ragione del perché tu vuoi lì quell'articolo, vuoi tagliare così. E se è convincente, tornando al discorso del come si scrive, c'è sicuramente una capacità, una malformazione genetica, uno nasce poeta malformato geneticamente. Però si può, o si fa finta e si guarisce, ci si opera. Infatti si va avanti, si fa finta di essere precisi a tutti gli altri, oppure persisti e fai di questa malformazione una formazione. Cioè proprio ti formi, lavori tantissimo, lavori sulla lingua, sai come entri, cioè lavori sulle ultime cose che escono, ti confronti con gli altri, ami molto e a un certo punto ti lasci anche sconfiggere. Perché la poesia è diversa dalla filosofia, non si scrive per dire, cioè non è un pensiero che porti avanti. Una poesia è una rivelazione, è un altro che detta dentro, diceva Gander. Io sono una che scrive per fortuna. Ma fortuna non è quella del gioco, la fortuna è la sorte latina. La tucia. La tucia, sì. È qualcosa che ti tocca in sorte. È per questo che a volte la grande poesia è anche profetica. Non mi metto a quei livelli. Però se non miri in alto, scusa, sì. Se non miri in alto non. Profeta, sì, nel senso di rivelatrice. Però fai, no? Mostra, porta avanti, mostra, illumina. Sì, in questo senso qui sì. Nel senso proprio greco, ecco, il lavoro anche sulla lingua. E sul perché, il lavoro sul ritmo. Ce n'è una particolare che mi piace, che è fatta, intanto ci gioco, avete capito che mi piace giocare con lingua. Da giocare, perché la poesia è soprattutto lingua. Per cui mi piace molto lavorare con le rime. Avete sentito come le caccio dentro. È facile con due linee rendere stupido un testo, improvvisamente difficilissimo usare le linee. E tanto tanto la musica, perché l'italiano è una lingua musicale, una lingua magnifica, magnifica, molto più dell'inglese e del francese. Mandelstam diceva che l'italiano è una lingua dadaista, dà un sacco di possibilità. Sentite questa. Le sillabe dei larici spuntano a mazzi sulle braccia degli alberi sbiancati alla primavera. Stanchi rottami di neve lasciati a disfarsi sui fianchi dei prati alti, grumi d'inverno mai morti, quelli risorti sono gli sguardi tornati più verdi salvati. Questo è un ritmo greco. No. Fare una domanda, mentre si parlava di lingua, no? Quindi spesso si ha anche il desiderio di una traduzione di una poesia, che immagino sia una cosa particolarmente difficile. Ecco, come dovrebbe trattarla lei, visto che qualche modo segue una rima ben precisa, insomma, e forse in un'altra lingua non è così facile come stava dicendo, appunto. No? Questa è una cosa. E l'altra domanda poteva essere anche legata al fatto che non è semplice trovare una persona come lei, ad esempio, è un mio parere personale, che legge le proprie poesie, insomma, no? Perché i più che io ho visto le fanno leggere ad altri, no? Allora io mi domando, se la leggesse qualcun altro, la sua poesia ne sarebbe contenta, oppure si aspetterebbe una costruzione proprio musicale diversa, ecco. Non lo so, non è sua. Non so se mi sono spiegato. Ho capito. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la traduzione è sempre tradire e tradurre, non si può pretendere assolutamente. E in effetti i grandi vanno a cercare l'originale, potendo, rispetto... Appunto, Mandelstam si era imparato l'italiano per leggersi la Divina Commedia. Scimusini, premio Nobel morto da poco, anche lui è egregio traduttore di Dante e dei nostri... Di Pascoli, bravissimo, se leggete le traduzioni... Se avete modo di leggere la traduzione di Pascoli in inglese, masticato per l'inglese, vedete una linearità, una perfezione che è qualcosa di pauroso nella traduzione. È stato un grandissimo traduttore di Pascoli. E anche dei classici latini in inglese. E in alcune sue poesie usa addirittura le parole di Dante, una famosa poesia. Per tradurre un poeta ci vuole un poeta, spesso è così, e tenendo comunque appunto il fatto che non è possibile più di tanto andare. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, io sono contenta, cioè le poesie sono fatte per essere lette dagli altri, e è vero che uno dà il suo ritmo, la sua impronta, però è giusto. A me piace dire, le poesie belle sono come dei pigiami, ti devi sentire bene dentro, le devi indossare e devi dormirci bene, non devono tirare da tante parti. È anche una questione di gusti, per cui uno sta bene con un certo tipo e uno sta bene con un altro tipo, però dentro una poesia, cioè uno la deve indossare e se la deve adattare. E uno non può essere geloso delle proprie, anzi, più vengono lette, meglio è. Io sono qui a leggerle perché lui è senza voce. No, leggevi te lo stesso. Me li faceva leggere lo stesso. Però, cioè, se ci fosse un lettore, a Torino c'era il lettore, per esempio. Quell'attore lì. Ecco. Poi appunto, come diceva lui, se è bella, è bella, tiene lo stesso. Ma la stessa lettura, se non è proprio un'esposizione, ma è una lettura anche autorale, è comunque una forma di traduzione. Ognuno di noi ha delle chiavi, anche delle sovrastrutture. Il bello della poesia, in generale, è di leggere poesia tuo privato. È che tu dal libro, dalle parole, estrapoli quello che tu vuoi sentire. In qualche modo il poeta, una volta che ha scritto il libro, il suo mestiere l'ha finito, diventa un lettore come qualsiasi altro del libro. Ognuno di noi, da un buon libro di poesia, è in grado di prendere quello che a lui suscita, partendo dal proprio sentire. Questa è la grandiosità di certe opere, e ognuno di noi sarà, come è normale nella vita, più incline a vedere certe cose piuttosto che altre, ma la poesia, la migliore poesia è in grado proprio di fare emergere tutto questo arcobaleno di cose. Mia domanda era un po' questa, no? Visto che avete affrontato il problema della punteggiatura, a me capita di sentire naturalmente recitare alcune poesie con la punteggiatura vera scritta e poi invece risentirla con una punteggiatura che è invece più pensata, insomma, no? Quasi recitata. Ecco, nascono sicuramente anche delle distorsioni con molta probabilità, no? Perché vai ad affermare certi elementi, certi termini che con punteggiatura diversa, quindi parlata, raccontata, vuol manifestare magari degli incisi che nella scrittura sono completamente diversi. Ecco, questo era il senso che cercavo di capire. Sì, anche quello è un lascito, diciamo, del post-avanguardia, nel senso che non esiste più la lettura del verso chiuso come può essere stato fino alla prima parte del Novecento, per cui spesso si incontra oggi nella poesia soprattutto una spazialità del testo che spezza magari il verso in determinati punti per dare un accento, come diceva lei, a determinate parole, perché in qualche modo anche la sostanza in certi casi pesa più della forma, e la lettura va di conseguenza. Oggi non si trovano quasi più i punti virgola, per esempio, nella poesia, nonostante in certi casi, soprattutto nella didattica delle scuole, sarebbe il caso di fare capire perché ogni tanto ci vuole il punto e virgola anche in poesia, se nostro Signore era messo un motivo, l'ha inventato, un motivo ci sarà e c'è. E quasi più si trova, e molti due punti in realtà sarebbero dei corretti punti e virgola. E fa parte proprio dell'evoluzione del linguaggio anche poetico, alla fine, e dell'effettuazione poetica. Stanno cambiando le cose, sono un pochino più liquide, ma l'importante, diciamo, è che la struttura tenga il palazzo, non cada, come se si parlasse proprio di architettura poetica. Sì, noi veniamo dagli anni 60, dove c'è stata la destrutturazione totale del verso poetico e dalla prosaicizzazione estrema della poesia. Il verso non esisteva quasi più, anzi c'era proprio un'esasperazione, una specie di... c'erano delle opere che erano prose interrotte qui e là. Veniamo quindi da una poesia che è stata presa a picconate, per citare il nostro Presidente della Repubblica di quegli anni, e adesso c'è tutto un fermento per la ricostruzione di un senso e anche di una struttura. Non possiamo più, per esempio, appunto, il lavoro sulla rima è difficilissimo perché non ci possiamo più basare sulle strutture rigide in cui appunto il Pascoli era meraviglioso. Non possiamo più usarle. Non è che che siano fuori moda, ma non sono sufficienti per esprimere quello che sta accadendo adesso. È come una nuova germinazione. E teniamo anche in mente, io invidio un po' i poeti dialettali, perché il dialetto ha conservato una forza, una spontaneità che l'italiano non ha. L'italiano è una lingua falsa, costruita adesso dalla televisione. Ci ritroviamo con una lingua molto difficile da usare, in cui delle parole grosse, bellissime, cuore, sono usate per i baci perugina e sono state consumate, stracciate, sono state svuotate. Come usare queste parole qui che sono fondamentali? L'italiano non è una lingua facile da usare. Questo italiano di questa fine secolo, inizio secolo, insomma. E bisogna farci i conti. Ma c'è ancora più testo. Aspetta, c'è un'altra domanda. Sì, volevo chiedere a lei, signor Fantuzzi. Lei diceva prima che è auspicabile che ci si faccia l'idea che la letteratura. letteratura non è per pochi, no? Ma è qualcosa che ci riguarda tutti. È chiaro che ci vuole ancora un certo tipo, no, di modo di scrivere, sia per contenuti. Cioè. E secondo lei che cosa rende la poesia del signor Bertolini un tipo di letteratura a cui tutti si possono sentire approcciati? Innanzitutto l'umanità e poi la verità. La poesia della Bertolini non ha sovrastruttura, dice le cose per quello che sono, anche se anche per durezza a volte diventa, non è solo lieve, sa essere anche estremamente dura ma sincera. Tutto questo in poesia paga tantissimo, perché si capisce proprio la bontà dell'autore e il lettore lo percepisce immediatamente. Io ho sempre avuto questo, anche nei lavori precedenti di Maddalena, ho sempre avuto questa impressione proprio della verità. Sì, quel libro in prosa è durissimo, il primo racconto è duro. Torniamo a cose più belle. Immaginate un bambino piccolo che dorme. Il cielo dorme a braccia alzate. Quando respira solleva le montagne e vedi le maree sotto le palpebre. Tutto è fatto a forma di figlio. La cavità virtuosa che lei si porta dentro, il movimento delle braccia di lui quando lavorano, lo spazio tra il desiderio e l'insperato, tra il primo e l'ultimo vagito. Insomma, io lo sapevo che vi sareste alzati come spighe, portato barbe tenere e pannocchie chiare. È che a vederlo seduto sul divano, davanti alla televisione, il mio campo di grano, con le radici alzano il pavimento, gli zoccoli delle voci fanno tremare i vetri, i miei puledri sono felici in anni disperati, sono marchiati e riconoscibili. Farò finta di perderli nei boschi delle favole da piccoli, quando ero strega e principessa e loro re, potenti più di me. Sono un lago, sono una madre lago, canticchiavo sulla sponda stupida di giugno le ninfee, legate con lo spago, al nodo dello stomaco, volevano volare. Aquiloni siete, solo appoggiati, semi permanenti, bianchi e rossi, con le lame dei germogli in resta. Levatevi dalla superficie per piacere, spiegate le camicie come ali inamidate, collocatevi in cielo come nuvole, slegate le caviglie, figli, lasciatevi guardare, strappate a vostra madre, ferma, faccia in su, solo il riflesso, quasi una fotografia. Devo andare. Mio figlio ci ricorda che è ora di cena. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi. Ci sono i libri di Maddalena Bertolini, per chi li vuole, sostenete i poeti, leggete i poeti, regalate i poeti, sono il miglior regalo per Natale, e questo solo chiedono di essere letti e di essere ascoltati. Grazie a tutti voi.